Vita non c'è spazio, non c'è dignità, chiuso dentro queste sbarre senza libertà. La memoria resta, lei non si arresta, ha richiuso il mio corpo ma non la mia testa. No, no, no, no, no, no, fate a galera. No, no, no, no, no, no, fate a galera. Oltre al muro vedo loro pronti a giudicare chi sta dentro, chi sta fuori dalla società. Che strategica difesa della proprietà. Quanto costa quel che resta della nostra sicurezza? No, no, no, no, no, no, no, no. Patria galera. No, no, no, no, no, no, no. Patria galera. Il problema è prigione, ha una sola soluzione. Non è la riforma, ma l'abolizione. Le norme e le eccezioni decise in Parlamento. O sei uno di loro, o ti sbattono dentro. Oh no, no, no, no, no, no, no. Patria galera. No, no, no, no, no, no, no. Patria galera. E tu che sei là fuori, non sei meno prigioniero. Sei schiavo del lavoro, soprattutto quando è nero. Sei schiavo del sistema, del produrre e consumare. Recluso più di me, ti ho tempo per pensare. No, no, no, no, no, no, no, patria galera.